l'amore vero non ha colore, nel buio e nella luce non è visione, e batte forte nel cuore. Quello che è dato dall'uomo è solo un grande alone, tra miseria e povertà, per scelta o per ragione. L'affinità non si distingue, se non le vuoi vedere, se non le vuoi cercare, quello che vuoi non è amore. E non giudicare mai, che Dio è in ogni cuore, e la vita ci accompagna senza cuore. Con i rimpianti e i rimorsi, eppure con dolore, ma la vera gioia lo sai, è nel suo candore. Tra miseria e povertà, ci vuole amore, ci vuole amore.